Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di Simone, Ivan. Ivan, ragazzi, buonasera. Com'è? Buonasera. Sta andando la serata? Beh, da Dio. Da Dio? Sì, sì, ci stiamo divertendo un sacco alla fine. Ci sta, ci sta. Sì, è la prima volta che io personalmente vengo al convento, però. Siete della zona? Io sono di Civiverghe. Non conosco, non sono del nord. Paesino di 10, da qua a 10 minuti più. Ah, ok. Sì, non è lontano, questo volevo capire. No, non è lontanissimo. La stesso paese anche tu? Esatto, esatto. Scusami, di dov'è che sei? Napoletana. Ah, wow. Si sente un po'. Si sente? Sì. Cerco di camuffarlo, ma si sente. Sì. Va bene, non fa niente. Bello l'accento. Ci sta. E ognuno ha un proprio accento. Sì, esatto. Giusto? E anche l'Italia è bella anche per quello. Il mondo è bello perché è vario. Certo. Come sta andando il festeggiato? È un bello carico stasera, ragazzi? Allora, festeggiato, bello carico, sì. Sì, sì, stasera sì, ma lui è di solito è sempre carico. Ragazzi, vi devo dire che mi ha raccontato dell'esperienza in cui è andato a ballare e si è perso. Ma com'è possibile, ragazzi, col pulmino? Allora, io c'ero. C'eri? Io non c'ero, so se la ce l'avate, ma sono rimasta scioccata. Ed ero letteralmente. Eccolo lì. Eccolo qua. Un bacio. Ero letteralmente il posto davanti al suo. E prima di scendere l'ho svegliato, mi ha detto va bene, scendo. E alla fine non è più sceso. Mio Dio, infatti. Aveva il telefono scarico senza soldi, ma mamma mia. Scarico senza soldi, andato a prendere un nostro amico fino a Francavilla, credo, qualche paesino del genere, è andato a prendere macchina alle 5 di mattina. Mamma mia, sì, un'avventura, sì. Le fa le avventure il nostro lui? Marco? Mamma mia, io una mattina mi sono svegliato con sua mamma che mi suonava il citofono, alle 8 di mattina sono andato a dormire a 7 e mezza, alle 8 era lì che mi suonava e mi fa, mai visto mio figlio? Gli ho detto, guarda, io l'ho lasciato a casa del nostro amico, vai a cercarlo là. Ci sta, ci sta, ragazzi, ma se non si fa adesso, quando si fa? Esatto. Cosa studiate? Studiate, lavorate? Io lavoro da una ditta qua a Brescia di formaggi che si chiama Ambrosi, faccio un magazziniere. Tu invece? Anch'io lavoro, sono un chimico. Wow, bello. Grazie. Vedo parecchi fan che ci guardano, ragazzi. Sì. Abbiamo il gruppo, allora, il gruppo delle vergini. Questo è il gruppo delle vergini, che sono delle ragazze, proprio ragazze, le chiamo ragazze, ma proprio pazzesche. Sono entrate prima qui. Sì, ho avuto modo di conoscerle. E, i vostri amici che lì ci. ci degustano dei loro molti. Saluti molto calorosi. E che volevo dirvi, ragazzi, cosa mi raccontate? Volete fare una dedica al vostro amico e festeggiato Marco stasera? Guarda, una grande dedica a Marco. Speriamo che possa andare avanti così. Ci ad sta. Essere un ragazzo così spontaneo e genuino e che non possa mai cambiare il suo modo di essere. Sì, il suo modo di essere. Ma sarà sempre, quindi io lo so già. E tu, Ivan, ti vuoi fare una piccola dedica? Una piccola dedica. Che poi vi lascio andare perché vedo che siete ricercati. Ma questa sera le vedo molto scatenate, quindi. Sono scatenate, infatti. Sì, che sono cariche, stracariche. Piccola dedica, sono 26 anni che ho fatto, vi auguro ovviamente il meglio, da qua ai 30 deve spaccare di brutto perché secondo me dopo si va solo in discesa. Ma non è vero, dai. No, dipende dal punto di vista. Bravo, persona. Dipende dai punti di vista e che dire. Non saprei cosa altro dire. Va bene, allora io ti lascio proseguire la serata fuori con Marco e vi lascio divertirvi, allora. Ma dai. Esatto. Ma come ti chiami te? Io mi chiamo Valentina. Valentina, ok. Valentina. Sì, sì. Sono la grande sorella della radio. La grande sorella. Beh, ce l'ha un po' del Grande Fratello, il confessionale. Questo, quello che dite qui resta qui, ma in realtà non è così, perché noi facciamo dei podcast, quindi in realtà siamo registrati con una radio. Ci sta, no? Ci sta, un'ottima idea. È una cosa diversa che non troviamo dappertutto. Giusto far sentire la propria voce. Va bene, ragazzi, è stato un piacere chiacchierare con voi. Vi anche ringrazio e vi lascio una buona serata. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Grazie a te, Valentina. Ciao. Ciao.